Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Un benvenuto da Maurizio Melis. Si fa un gran parlare di economia all'idrogeno. Purtroppo si tratta di una prospettiva oggi molto lontana. L'idrogeno è infatti un eccezionale vettore energetico, ma non è una fonte di energia. Per capirci, la benzina è un vettore energetico, mentre il petrolio è una fonte di energia. Produrre idrogeno, anzi, determina una perdita netta di energia primaria, sia essa energia elettrica, oppure calore fornito dalla combustione di metano, oppure carbone. Tuttavia esistono situazioni particolari nelle quali l'idrogeno si rivela già oggi utile, anche se siamo in un'area, va detto, al confine con la ricerca. Infatti l'idrogeno si converte in elettricità con un'efficienza molto elevata, per esempio all'interno delle celle a combustibile, ed è molto anche adatto ad accumulare energia. Due possibilità di utilizzare l'idrogeno che sono state esplorate da una startup nata nel luglio del 2007 presso il Politecnico di Milano, da un giovane fisico esperto di idrogeno, Giacomo Coppo, e un giovane ingegnere con esperienza proprio nella gestione di startup, Lorenzo Tardini, che è in linea con noi. Buonasera Tardini. Buonasera, buonasera. Dunque, voi circa un anno fa avete, diciamo il nome della startup, si chiama Hydrogen 2, e circa un anno fa avete annunciato un idrolizzatore a basso costo. L'idrolizzatore è un oggetto che produce idrogeno a partire dall'acqua, grazie al quale riuscivate appunto a produrre idrogeno di notte, sfruttando il costo basso dell'energia in fascia notturna, e questo idrogeno poi poteva essere inviato in una caldaia mescolato a del metano. Adesso invece state lavorando su un cogeneratore a idrogeno. Ci spieghi un po' di che cosa si tratta? Sì, dunque, fondamentalmente si utilizza l'idrogeno all'interno delle pile a combustibile per produrre energia elettrica, e siccome la reazione è esotermica, il calore in eccesso viene recuperato attraverso scambiatori per fornire calore alle utenze energetiche, per cui si ha una produzione sia di energia elettrica che di calore, che rende dal punto di vista dell'efficienza del tutto sostenibile. Da cosa estraete l'idrogeno però? Ad oggi il primo passo è di estrarre l'idrogeno dal gas metano, perché si fa il reforming del gas metano attraverso un bruciatore catalitico, per cui attraverso una reazione di catalisi. Dal metano si produce l'idrogeno e la CO, che viene reimmessa nel ciclo produttivo, per cui anche le emissioni sono molto basse. Ecco, la CO è il monossido di carbonio. Ecco, dunque, mi dica se ho capito. Voi prendete del metano, lo bruciate in una speciale caldaia catalitica, si parla di reforming, il metano contiene carbonio e idrogeno, estraete questo idrogeno che finisce in una cella combustibile in cui si genera elettricità e anche calore. Voi intercettate questo calore prodotto sia dal bruciatore che dalla cella combustibile, e con questo calore producete acqua calda. È corretto? Sì, esatto. Quindi producete entrambe. Qual è il vantaggio di questo sistema rispetto ai normali sistemi di cogenerazione, quelli che bruciano normalmente metano con una turbina o con un motore a scoppio, per esempio? Dunque, ha tre evidenti vantaggi. Il primo è che la dimensione, la taglia del cogeneratore è un 35 kW elettrici e 45 termici, è adatto per un uso civile residenziale, più o meno un condominio di circa 30 abitazioni può servire, cosa che invece è più difficile con i cogeneratori normali, che sono tendenzialmente più grossi. Ecco, quanto è grande quindi, più o meno, per dare un'idea? Quanto un frigorifero? Esattamente è grande, 4 frigoriferi facciamo. L'idea è che sia posizionabile all'interno delle centrali termiche oggi esistenti nei condomini. Ecco, perché questo è un po' il luogo privilegiato di installazione, i condomini o forse anche qualche edificio pubblico? Sì, dico condomini per dire edifici ad uso civile, perché l'altro grosso vantaggio che ha questo cogeneratore è che è molto silenzioso, non avendo nessun organo meccanico in movimento, per cui non ha il problema del rumore, cosa che hanno tutti gli altri cogeneratori. Aveva detto che i vantaggi sono tre, qual è il terzo? Il terzo di sicuro è l'efficienza, perché raggiunge efficienze globali di più dell'80%, e il fatto che le emissioni sono praticamente annullate, visto che anche la CO prodotta viene reimmessa nel ciclo produttivo. D'accordo, non è ancora disponibile sul mercato, e se non sbaglio lo sarà tra circa un anno, però state già facendo diverse installazioni. Sì, da qua a maggio del 2010 verranno fatte 6 installazioni, di cui 4 in Italia e 2 all'estero. In Italia verranno installate presso il Politecnico di Milano, della nuova area della Bovisa, presso il Palazzo Reale di Monza, la Villa Reale di Monza, in un comune vicino in provincia di Verona e in un paese in provincia di Venezia. All'estero verranno installate una in Grecia e una in Polonia, perché questo progetto è anche all'interno di un progetto europeo molto più grosso. D'accordo. Più o meno quali sono i costi e i tempi di ritorno dell'investimento? Perché il cogeneratore abbia un ritorno economico, abbia un senso, dal punto di vista economico il prezzo di target è di circa 70.000 euro. che sarà raggiungibile nella seconda metà del 2010. E in questo modo il tempo di rientro dall'investimento del condominio è intorno ai 6 anni, 6 anni e mezzo. Ecco, questo tempo di ritorno tiene conto di una tariffa particolare, una tariffa incentivante che non è quella delle risorse rinnovabili, ma è una tariffa particolare che viene riconosciuta a chi produce energia elettrica con una efficienza molto elevata. Esatto. È corretto? Sì. Va bene. Grazie Tardini, allora buon lavoro, in bocca al lupo per il vostro progetto. Grazie mille, arrivederci. Bene, grazie per averci seguito, Mr. Kilowatt torna domani, parleremo di un kit per analizzare l'acqua del rubinetto di casa. Cosa c'entra con il risparmio energetico? Lo scoprirete. A domani.